Il problema è che con le ultime misure previste dal governo nei confronti della pandemia ci siamo trovati di fronte a un paradosso dove gli studenti che possono entrare senza il cosiddetto Green Pass rafforzato a scuola, però non possono salire sugli autobus e su tutti gli altri mezzi del trasporto pubblico locale. Adesso è stata fatta una parziale marcia indietro, nel senso che gli è concesso agli studenti di prendere i trasporti dedicati, che sono sostanzialmente gli scuolabus, però questi esistono sostanzialmente solo in alcuni comuni e solamente per i ragazzi e le ragazze più piccole, insomma per gli studenti delle elementari e delle scuole medie, mentre invece in città, a parte una scuola, tutte le altre scuole non hanno trasporto dedicato e quindi tutti i ragazzi sprovvisti di Green Pass, per qualsiasi motivo sprovvisti di Green Pass rafforzato, non possono salire e quindi è una discriminazione poi forte, perché chi non ha altro mezzo per andare a scuola deve stare a casa. Potrebbero fare parte della quota, insomma, già consistente della dispersione scolastica? Assolutamente sì, è un altro elemento che va a rendere difficoltoso e aumentare. Abbiamo già avuto, tra l'altro, alcuni ci hanno già chiamato, genitori, sappiamo di ragazzi che non possono frequentare, che verosimilmente perderanno l'anno, smetteranno di andare a scuola oppure riprenderanno quest'altro anno, comunque con l'anno perso, insomma è una cosa, a nostro modo di vedere, non corretta. In commissione l'assessore alla scuola del comune di Bologna, Daniele Ara, ha detto che non c'è un conto preciso. Ah no, certo, anche perché risulta abbastanza difficile, nel senso uno dovrebbe mettersi a fare un'indagine delle motivazioni per le quali tutti gli studenti sono assenti. Adesso oggettivamente in questo periodo le assenze sono anche parecchie per via dei contagi, delle quarantene, dei contatti stretti, quindi diciamo le assenze sono comunque numerose e in mezzo a queste ci sono anche quelle dei ragazzi che non possono prendere i mezzi pubblici. Ma effettivamente, come dire, queste misure che valgono sugli autobus e non valgono per la scuola aiutano a contrastare la pandemia oppure no? A mio modo di vedere no, nel senso che sono tutte misure, molte di queste misure sono misure disciplinari sostanzialmente e non è che hanno, a detta anche degli esperti dello stesso CTS, non hanno un'efficacia reale nei confronti del controllo e del contenimento dei contagi, hanno l'effetto di spingere la vaccinazione, ma è un altro discorso, insomma, secondo la logica di chi ritiene che la vaccinazione, ovviamente che è un passaggio estremamente importante, che è uno strumento utile e imprescindibile, però molti lo considerano l'unico. In realtà le scuole, voglio dire, noi abbiamo considerato due cose. Nella contingenza il picco di contagi si è avuto quando le scuole erano chiuse da 15 giorni, quindi mi sembra un po' difficile pensare che possa essere la scuola il veicolo principale. Secondo, le scuole trattate nella maniera adeguata possono essere più sicure di tanti altri posti e soprattutto possono essere anche, con un'attività di tracciamento coordinato, anche un ottimo punto di controllo e di tracciamento di test per controllare l'andamento dei contagi. Ma il problema è che dall'inizio di questa pandemia, quindi da oltre 2 anni ormai, la scuola è sempre stato l'elemento sacrificato, l'elemento che viene considerato fuori dal circuito economico, non produce, non dà, quindi semplicemente o si chiude o si sposta o si sacrifica sulla pelle poi dei ragazzi alla fine sostanzialmente. La logica è sempre stata questa. Però insomma si genera un conflitto tra due diritti costituzionalmente sanciti, cioè da un lato il diritto alla salute e dall'altro il diritto all'istruzione, anche questo è un diritto costituzionale. Sì, questo in effetti c'è e diciamo la situazione è oggettivamente complessa, quindi è molto facile che questi due diritti rischino di collidere, insomma, però fino adesso diciamo è sempre stato sacrificato quello all'istruzione e soprattutto quello che contestiamo spesso è che è stato sacrificato attraverso misure che poi non sono realmente efficaci, almeno fossero almeno efficaci per garantire l'altro diritto, ma poi neanche, come poi si è dimostrato facilmente, voglio dire, tutte queste hanno finora sempre sacrificato la scuola semplicemente perché sembrava la parte più debole o la parte economicamente non interessante, voglio dire, non ci si può dimenticare che comunque altre situazioni produttive, altre cose sono sempre state lasciate andare, anche lasciate aperte in situazioni anche complesse, mentre la scuola la si chiudeva subito senza colpo perire, insomma, considerandola evidentemente un orpello, verrebbe da dire, una cosa inutile. Io credo che bisognerebbe spingere tutti affinché la scuola diventasse veramente un punto alto delle priorità, non solo con le chiacchiere come stanno facendo, ma con i fatti, perché la sostanza è che in questi 2 anni hanno chiacchierato molto, sblatterato molto, ma non hanno investito niente, assolutamente niente. Ogni anno si riparte con le situazioni uguali a quelle dell'anno precedente, se non peggio. Cioè la sostanza è questa.